A bordo campo di Dario Ricci. Tanti colori, una sola passione, il baseball. Oggi a bordo campo raccontiamo una storia che nasce intorno a un diamante, a quel baseball che negli Stati Uniti e in molti paesi è veramente sport leggendario, che ha una buona tradizione anche in Italia e che può essere occasione di conoscenza reciproca. Sì, insomma, intorno a questo diamante in molti casi e in molti luoghi capitano dei piccoli miracoli. È un po' l'esperienza che è toccata ai Mariners Savona, il loro motto, proprio quello che ricordavamo all'inizio: tanti colori, una sola passione, il baseball. E allora parliamo, abbiamo al telefono il primo dei nostri tanti ospiti protagonisti dell'avventura dei Mariners, Flavio Pomogranato, che di questa squadra particolarissima, e ora scopriremo subito il perché, è uno dei fondatori. Benvenuto Flavio a bordo campo. Buongiorno a tutti, grazie. Allora Flavio, Mariners Savona, campionato interregionale di Serie C2, quindi non parliamo dei grandi campioni cubani o olandesi o anche italiani o statunitensi, ma parliamo di un'esperienza del tutto particolare che avete messo in piedi ad Albissola, Savona, insomma nella Liguria, che improvvisamente si è scoperta terra di baseball perché anche terra di immigrazione, vero? Raccontaci un po' questa storia. Questa nostra iniziativa nasce proprio dalla passione nostra per il baseball e anche dalla voglia di coinvolgere i tanti ragazzi immigrati che abbiamo nelle nostre città in Riviera, quelli che arrivano da quei paesi del Centro America, ma non solo, che hanno una fortissima passione per questo sport e ci chiedevano di poter giocare. E allora dall'incontro con questi ragazzi è nata l'idea di mettere su una squadretta dove tutti potessero giocare. Poi questa iniziativa, nata così per gioco, è cresciuta perché sono sempre stati più numerosi i ragazzi coinvolti in questa attività, e alla fine nel 2007, dopo qualche mese di amichevoli e di tornei, hanno espresso la volontà di poter giocare un campionato federale come qualsiasi squadra composta da ragazzi italiani, e da lì sono nati poi i Savona Mariners, che da 2 anni partecipano appunto al campionato di Serie C2. Giocano attraverso una deroga che la nostra federazione, la Federazione Italiana Baseball e Softball, concede sul numero dei giocatori stranieri, che sono tutti ovviamente rigorosamente residenti qui da noi, e partecipano e giocano a questo torneo. Giocatori che rappresentano Italia, Repubblica Dominicana, Nicaragua, Albania ed Ecuador. Primo problema: trovare una lingua comune, no? Immagino che quella più facile sia proprio quella del baseball. Sì, infatti abbiamo superato la cosa bella di questa iniziativa, poi alla fine è proprio quella, che sostanzialmente tutte le barriere che spesso si creano nella vita, nella società, attraverso lo sport vengono abbattute. I ragazzi parlano una sola lingua, appunto, che è quella del baseball, ed è molto bello comunque vedere ragazzi che arrivano da paesi, esperienze diverse, che poi sul campo si comportano come fratelli. Non esiste più l'albanese, il dominicano, l'italiano, ma esistono compagni di squadra. E forse il successo più bello che abbiamo ottenuto, quello che volevamo quando abbiamo iniziato questa iniziativa, su cui noi appunto contavamo tantissimo, perché siamo fin dall'inizio stati dell'idea che anche uno sport come il baseball, che da noi magari non è molto popolare, possa comunque essere un veicolo di aiuto per questi ragazzi, per entrare nella nostra società, per integrarsi nella nostra società. E lo sport è sicuramente una delle cose più importanti. Ti chiedo ancora, Flavio, come viene vissuta questa esperienza in città? Perché non nascondiamocelo che i problemi dell'immigrazione sono sotto gli occhi di tutti, la diffidenza è tanta tra comunità diverse, tra etnie diverse, eccetera, eccetera. In città come si vive l'esperienza dei Mariners? Ma sicuramente, diciamo che quando l'iniziativa è partita c'era molto scetticismo sul fatto che potesse funzionare, e invece abbiamo dimostrato che se ci si muove nel modo giusto tutto può succedere in senso buono. Ovviamente, purtroppo, poi dall'altra parte, come spesso succede in queste iniziative, quello che ancora troviamo difficoltà è l'appoggio comunque delle istituzioni. In ogni caso bisogna anche tener conto che sono ragazzi che più delle volte non hanno magari un lavoro fisso, quindi per loro ci sono anche difficoltà di carattere economico e noi in questo cerchiamo di offrire a loro la possibilità di giocare senza spendere soldi, insomma cercando di fornire tutto quello che possiamo. Il problema del campo sicuramente è uno dei problemi più grossi qui ad Albisola Marina, campo su cui diciamo viviamo una situazione precaria e che è anche una delle questioni che sta mettendo fortemente in dubbio la prosecuzione di questo progetto. Eh sì, problema purtroppo comune a tanti sport che sono poi terreno di immigrazione. Ne abbiamo già parlato a proposito del cricket, la situazione si ripropone anche per il baseball. Allora, facciamo una rapida carrellata dei protagonisti dell'avventura dei Mariners. So, Flavio, che lì vicino a te c'è il giocatore più giovane della squadra, Robert sì. Celicu, 17 anni, albanese. Beh, mandalo subito al microfono di A Bordo Campo. Te lo passo subito. Pronto? Pronto Robert, benvenuto a Bordo Campo. Subito presentati età e ruolo, perché vogliamo sapere un po' tutto di voi Mariners. Va bene, mi chiamo Robert, ho 16 anni e gioco in seconda base. Allora, come hai scoperto il baseball, Robert? Tramite un centro che c'è a Savona, si chiama Mille Piedi. Tramite il centro abbiamo scoperto il baseball, cioè quello, il direttore del Mille Piedi ci ha presentato Flavio. È stato lui un po' il tramite, ma immagino che tu da dove vieni, da quale città dell'Albania? Io vengo dalle montagne, Zibra. Quindi la cosa, insomma, l'ultima cosa a cui pensavi è che venendo in Italia saresti diventato anche una seconda base di baseball, immagino. Ma quando sono venuto proprio in Italia non c'avevo niente, cioè sono venuto poi per studiare, poi che mi è uscita l'opportunità di giocare a baseball ero più contento. All'inizio io l'avevo preso come un gioco così, tanto per divertirsi, ma poi mi sono attaccato. Sta diventando quasi una cosa seria questo campionato interregionale di Serie C2. Mi dicono che tanto impegno, ma di fuori campo se ne vedono pochi, però bisogna lavorare duro. Una l'ho fatta almeno. Bene, allora Robert, l'augurio oltre a quello di conquistare parecchie vittorie è quello di inanellare presto il secondo fuoricampo. Dall'Albania andiamo al Nicaragua. José Pavón Ruiz, 38 anni. José, so che in Nicaragua il baseball davvero è una grande passione popolare. Qua in Italia che clima hai trovato intorno al diamante? È stata una cosa così per caso, no? Un giorno mi ricordo passando per Albisola ho sentito il rumore della mazza con la pallina e così, siccome ero con un amico mio, ho detto fermati e ho trovato questa bella squadra. E poi, cioè, intorno al diamante praticamente facciamo poco, dovuto a che non è che sia un grande giocatore, però la passione per il baseball è quella che mi motiva sempre andare avanti a giocare con questa squadra. Credo che intorno a quel rumore di pallina sulla mazza, a risentirlo c'è anche tanta nostalgia, no? Uno ripensa a casa, ripensa alle partite che magari hai giocato nella tua città. Da dove vieni? Sì, la nostalgia del rumore della pallina con la mazza è veramente grande. Io vengo di Managua, la capitale del Nicaragua, dove giocavo in serie, diciamo, serie B. Cioè erano parecchi anni che non giocavo, dopo che avevo smesso sono venuto qui, ho sentito questo rumore e ho ricominciato a giocare. Erano praticamente 14-15 anni che non giocavo. Beh, insomma, direi che quella dei Mariners è stata l'occasione buona per riprendere mazza e guantone. Sì. Passiamo subito allora dal Nicaragua, siamo già stati in Albania, Repubblica Dominicana. Gabriel Medina, 30 anni, benvenuto a Bordo Campo. Beh, Gabriel, ti chiedo, quanto vale questa esperienza per il processo di integrazione? È un'esperienza bellissima, visto che io non pensavo che qua si giocava a baseball, poi mi sono trovato così e vedo che gli italiani gli piace pure anche giocare a baseball. E senti, il campione che più ammiri in assoluto nel baseball mondiale? Nel baseball mondiale ci sono tanti, però chi io più ammiro si chiama Pedro Martinez, che è il lanciatore che adesso gioca con lo Phillies di Philadelphia. Modelli impegnativi per i Mariners. Flavio Pomogranato, in campo quali sono i prossimi obiettivi della vostra squadra? Beh, noi cerchiamo di divertirci, cerchiamo di giocare, il nostro scopo principale è quello di portare più ragazzi che possiamo sul campo da baseball e cerchiamo di far conoscere questa disciplina che in Italia è ancora uno sport di nicchia. Diciamo che l'aiuto che ci danno questi ragazzi, poi una cosa volevo anche dire, i ragazzi, specialmente quelli che arrivano dalla Repubblica Dominicana, Nicaragua, Venezuela, sono ragazzi che giocano molto bene rispetto al livello di quello che è il baseball italiano, quindi spesso poi la loro presenza in campo serve tantissimo ad aiutare anche i ragazzi italiani, specialmente quelli giovani, a imparare la filosofia del gioco, il come giocare, cioè riescono a dare anche un qualcosa di più oltre quello che diciamo noi allenatori già cerchiamo di dare e proviamo a dare i ragazzi, perché il loro approccio al gioco è un approccio estremamente di divertimento, comunque di gioia anche quando si gioca ad altissimi livelli. Io spesso e volentieri li prendo in giro, ma è vero che quando li vedo giocare sembra che ballino salsa e merengue, ed è una cosa bella da vedere anche per chi viene a fare da spettatore alle partite. Devo dire che da quando ci sono questi ragazzi insieme ad altri che poi giocano nell'altra nostra squadra, quella degli Albisole Cubs, anche il pubblico si diverte di più a vederli in campo, perché riescono veramente a trasformare ogni domenica, ogni partita in una festa dentro e fuori dal campo. Beh, direi insomma che dai Savona Mariners c'è parecchio da imparare, sia dentro il diamante, dentro il campo che intorno. Allora ragazzi, in bocca al lupo per il vostro campionato, avete un grido di battaglia, ce lo fate? No, grido di battaglia non ne abbiamo. Ci diverti, è il sorriso, il nostro biglietto da visita. E allora e tanta musica che loro portano al campo. Il ritmo di salsa e di merengue. A bordo campo. Una lite in tribuna tra i genitori, i giocatori tutti della categoria Pulcini, età 8 anni, che si spaventano e non riescono più a giocare. Infine la decisione degli allenatori di ritirare le squadre dal campo. L'episodio è avvenuto durante la gara Africo-Firenze-Sud, stiamo parlando di categoria Pulcini del calcio, e insomma episodio che ha avuto grande eco su tutta la stampa e sui media nazionali, inevitabilmente quando sono coinvolti i bambini, il calcio e invece gli eccessi degli adulti legati proprio allo sport nazionale. Allora, benvenuto a bordo campo a Lorenzo Scarselli, responsabile della scuola calcio dell'Africo. Buongiorno a voi. Allora, signor Scarselli, ci aiuti a capire, ma durante quest'Africo Firenze Sud, questo infuocato derby tra Pulcini, che cosa è accaduto? Allora, è successo questo, che lo zio di un bambino dell'Africo si è espresso malamente in un modo che in partite di bambini non dovrebbe mai accadere, e dicendo se lui commette falli, se lui, come si dice qui a Firenze, ti sega, allora segalo anche se. E quindi chiaramente una frase, un'affermazione molto molto grave per quello che riguarda i bambini di quest'età. A questo punto un genitore del Firenze Sud, il padre di questo bambino che doveva essere segato, si è chiaramente indispettito e ha reagito, e quindi a quel punto è nato un parapiglia, molta confusione. L'allenatore del Firenze Sud, d'accordo con l'allenatore dell'Africo, e spinti dai bambini che rimanevano un po' basiti e un po' perplessi da quello che stava accadendo nelle tribune, hanno deciso di ritirare le squadre dopo un tempo e dopo che il punteggio era sull'1-1. E fortunatamente, vedendo anche l'esempio molto importante dato da questi bambini, questa partita in tribuna si è sedata. È ritornato l'ordine, siamo tutti intervenuti, io, il direttore sportivo e anche gli accompagnatori del Firenze Sud, per far capire che comunque questo comportamento era sbagliato, e niente, la cosa è finita lì. Ecco, le chiedo, signor Scarselli, è la prima volta che vi capita un episodio di questo genere? Sappiamo quanto spesso in occasione di queste sfide tra i bambini i più scalmanati siano proprio i genitori in tribuna, ma c'erano stati altri episodi o nella sua esperienza gliene sono capitati altri? Le dico la verità, sono successi altri episodi. Io penso che venga dato risalto a questo, in quanto è capitato in un periodo dove si parlava tanto di fair play per il discorso di Inter-Juventus e della partita Ascoli-Regina, no? Quindi era una settimana in cui il fair play era un po' al centro delle attenzioni. Sono successi, forse non così in modo evidente, ovvero becchi sempre in delle tribune, girando i campi, tra tanti genitori educati e che si comportano in modo corretto, quella testa calda che incita anche il proprio bambino a un eccessivo agonismo. Quindi dico, sta anche un po' all'intelligenza dei genitori, forse in questo caso non c'è stato un genitore pronto, né dell'Afrio né del Firenze Sud, a fermare questa persona, a dirgli scusa, andiamo un attimino a prendere un caffè, ti calmi un attimo, pensi a quello sì, che... Sì, magari meglio la camomilla. Sì, è vero, in questo caso era meglio una camomilla. E quindi le dico che non sono casi proprio sporadici, sono casi presenti, sono casi comunque che la federazione tiene sott'occhio, in quanto organizza sempre delle riunioni per cercare di educare non solo i bambini ma anche i genitori, e quindi io le dico, gran parte dei genitori sanno, grazie a tutto questo lavoro, come ci si deve comportare. In questo caso probabilmente uno zio di una certa età si è lasciato andare un attimino troppo, sbagliando, quindi è indifendibile. Però insomma le dico che ci sono anche altri casi, e poi non finiscano sotto l'occhio delle telecamere, che rimangano celati. Ecco, vedendo da fuori non era un bello spettacolo, quindi si è visto un grosso movimento di persone, cosa che quello sì, si vede raramente, capito? Senta, le chiedo perché ha toccato proprio un punto centrale dell'argomento. Sì. Sono in campo progetti formativi ed educativi per i genitori, perché i bambini, tramite l'allenatore, tramite l'esperienza di squadra, sì, sono chiaramente al centro del progetto educativo, che a quell'età soprattutto non mira certo a trovare il campione, ma soprattutto a passare bene un'ora al pomeriggio intorno a un pallone, a giocare bene. Ma con questi genitori come si sta lavorando? Allora, senta, le dico, grazie a un progetto che fa la federazione, la FIGC, e il settore giovanile e scolastico, danno la possibilità alle società, danno degli incentivi alle società per organizzare riunioni proprio su queste tematiche, quindi le tematiche sulla salute, sull'alimentazione. Ecco, una di queste tematiche è proprio l'educazione e il comportamento ad attenersi dei genitori. Quindi la federazione dà gli incentivi, poi sta a ogni società organizzare presso la propria sede delle riunioni finalizzate a questo scopo. E le dico che noi, ma anche lo stesso Firenze Sud, siamo società che fanno queste riunioni, riunioni a cui partecipano gran parte dei genitori. 2001 sono i bambini di 8 anni coinvolti in questa vicenda, quindi dico i bambini del 2000 e del 1999 viene organizzata ogni anno, a inizio anno e a metà stagione, anche per parlare di altri aspetti, però proprio specificamente per parlare sull'aspetto educativo. E le dico la verità, sono sempre riunioni molto frequentate. Chiaramente, le ripeto, uno zio probabilmente di una certa età che non frequenta l'ambiente in determinate riunioni e così, ci sta, no? Vecchio stampo, vecchia mentalità che esca con questa cosa, pur sbagliando, le ripeto, essendo indifendibile. Però vedo che c'è un lavoro in questo senso, e vedo che, le dico la verità, da quando ho iniziato io a fare istruttore, cioè ormai 15 anni fa, insomma, vedo che ci sono dei miglioramenti in questo senso. Le chiedo ancora, signor Scarselli, sì, in generale i genitori che lei incontra enfatizzano più l'aspetto educativo, o ce n'è veramente qualcuno che già cerca il campioncino? Senta, questo no, secondo me è un grosso aspetto che andrebbe migliorato nel calcio, perché a differenza di altri sport che io vedo vicini di casa nostra, come può essere il rugby e come può essere il basket, c'è una mancanza di educazione, appunto, come ha detto lei, nel senso formativo, ovvero che anche se non contano a questa età, i genitori, non cadendo appunto negli eccessi che sono successi sabato, i genitori guardano troppo al risultato, quindi guardano appunto al bambino se ha fatto un gesto tecnico, poi nonostante i bambini si siano comportati bene tecnicamente dal punto di vista educativo, però se poi la squadra perde e allora dicono però si poteva vincere, no? Quindi effettivamente questo è un aspetto su cui anche qui la federazione ha fatto un grosso lavoro, perché le partite appunto non danno esito ad una classifica, il risultato si può indicare oppure no, è facoltativo, quindi la federazione anche in questo senso ci ha dato grossi incentivi, però vedo che rimane sempre un po' nei genitori, anche nei genitori piccoli, anche nei genitori di bambini di 7-8 anni, la logica del risultato. Questo effettivamente, devo essere onesto, e sarebbe davvero un grosso passo avanti se riuscissimo, prendendo appunto spunto da sport come il rugby e così, a far valere più l'aspetto formativo che il risultato in sé per sé. Mi sa che l'unica soluzione, signor Scarselli, sarà quella a un certo punto di eliminare le porte e il pallone, così almeno insomma, no? Soluzione un po' estrema. Se ne hanno provate di tante, partite miste, cose di questo genere, ma mi sembra proprio nel calcio sia insita questa cultura del risultato, quantomeno in Italia, si sente in altri paesi lo curano un pochino meno, no? Si sente parlare, però in Italia io vedo che la logica del risultato ancora purtroppo prevale. So che comunque sia voi dell'Affico che il Firenze Sud state già lavorando per cancellare questo brutto ricordo, o meglio per conservarlo nella casella delle brutte esperienze e quindi trarne gli giusti insegnamenti, ma anche per tornare sul campo e stavolta divertirsi tutti quanti, no? Sì, senta, le posso dire che da questo punto di vista anche il comune di Firenze ci è venuto incontro, è stato molto celere, sono stati invitati i bambini sia dell'Afri che di Firenze Sud al comune, perché verranno premiati per il loro gesto e per il loro esempio che hanno voluto dare ai genitori. Quindi insomma anche questo vedo che anche il comune ci è venuto molto incontro. Noi nel periodo natalizio organizzeremo questa partita con Firenze Sud, quindi sarà un recupero vero e proprio, ma un po' particolare, perché organizzeremo poi un terzo tempo a squadre miste e una merenda finale che verrà offerta a tutti i partecipanti. Insomma, quindi daremo anche noi grosso risalto a questi bambini che hanno dato un grande esempio ai loro genitori. E allora, Lorenzo Scarselli, responsabile della scuola calcio dell'Africo, buona merenda riparatrice, auguri di buon Natale a lei e soprattutto ai suoi pulcini, e magari pronti a consegnare il carbone a quei genitori che dovessero ricapitare in fuorigioco sulle tribune. Carbone a chi si riporta in questo modo. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.